Siamo in collegamento telefonico con Giovanna Marini che sarà al Teatro Vascello il prossimo 3 aprile con Il cielo si fa nero, la memoria delle fosse ardeatine. E Giovanna, intanto ben trovata. Ci Grazie. parli un po' di questo lavoro? Sì, guarda, è un lavoro che sto facendo insieme al Circolo Gianni Bosio, per cui abbiamo un calendario civile, che io rispetto molto, perché ci sono delle date, secondo noi, da non dimenticare e da celebrare, come le altre celebrazioni, per esempio il giorno terribile della morte dell'attentato a Falcone e poi quello successivo a Borsellino. Anche lì si farà una data come calendario civile. L'altro anno abbiamo fatto quello, infatti, il calendario per Falcone e Borsellino. Quest'anno lo facciamo un po' in ritardo per le fosse ardeatine. E ogni anno ci stanno tanti momenti da ricordare e si fa un concerto, si fa una conferenza o qualcosa, insomma, si celebra. Sì. Allora, io ho preparato con i miei amici, siamo un quartetto, Patrizia Rotonda, Flaviana Rossi, Michele Vanca ed io, e facciamo un racconto per far vedere per i ragazzi che non si possono, poveracci, inventare cose che non hanno vissuto. Perché io ricordo, per esempio, adesso all'età veneranda che ho, io mi ricordo solo le cose dove c'ero, le cose che ho vissuto. E quelle imparate sui libri di storia è una specie di nebbia di accompagnamento, ma che non mi aiuta molto. Quello che ricordo è quello che ho vissuto. Allora vorrei far vivere a questi ragazzi quello che non hanno vissuto, raccontandoglielo da cantastorie. Quindi incomincio con i classici della Daffini, di Ivan Della Mea, capisci, per portare in modo vivace e vitale quello che è successo alla gente, con un linguaggio più vicino alla gente, Sì. non da accademia, ecco. Sì. E fatto questo, passiamo a un paio di canti popolari molto belli, di un minatore. Michele canta un canto di un minatore siciliano, poi Patrizia pure canta con me un canto bellissimo di Corrado Sannucci, che morì da poco, che era un bravissimo giornalista di Repubblica Sportivo, che scriveva anche belle canzoni. E questa è una canzone sull'amore di un padre per la figlia down. È veramente bello. E lo cantiamo, poi andiamo avanti. Io canto l'Ulrike Meinhof insieme ai miei amici, e poi canterò queste benedette fosse ardeatine. Dico queste benedette perché sono 6 minuti e mezzo, molto fitti. E tutto quello che racconto è ripreso dal libro L'ordine è già stato eseguito di Sandro Portelli, anche quello fatto di interviste dal vivo, Sì, i sì. Senti, parenti delle vittime. come hai pensato di mettere in musica appunto le parole, le interviste di Portelli? Guarda, tu sai che io ho una specialità. Fin dal 67 sono uscita con un disco, vi parlo dell'America, in cui, tornando dall'America, ero fresca di blues e di talking blues, per cui si faceva, che ne so, there's money and gold, and haven't I want to go, è tutto un parlato che poi si è trasformato in rap. Ecco, io faccio una parte di rap raccontando le due incursioni tedesche della Gestapo nella via Tasso, la prigione dove mettevano proprio i politici, c'erano torture, c'era terribile, e poi sono andati a Regina Coeli a prendere gli altri, quelli dei politici più normali e meno segregati, e vengono presi tutti, raccolti e caricati sui camion, partono, e i genitori, i parenti si ricordano questo fatto, perché loro andavano lì a portare i pacchi, alle udienze, le visite, e quindi gli veniva detto che non c'erano, che sarebbero tornati, ma che non potevano vederli adesso, che i pacchi sarebbero stati distribuiti dopo, e in 448 hanno ammazzato 435 persone, constatando pure, senza nessun rammarico, che ce n'erano 5 di troppo, si erano sbagliati nei conti, e ma tanto valeva ucciderli lo stesso perché ormai quelli avevano assistito a tutto. Ben consci che quindi era una cosa non guardabile quello che hanno fatto, perché non era possibile. Anche la rappresaglia in guerra si fa avvertendo, parlando con il paese straniero, il paese nemico, prendendo accordi su questo. Invece, utilizzando magari anche questa rappresaglia da fare per liberare dei prigionieri del nemico e cose simili, invece niente, hanno preso 335 persone in una mattinata, subito dopo l'attentato, e li hanno uccisi. E la fantasia popolare, hanno sparato dalle 3 del pomeriggio fino a mezzanotte e tutti sentivano sparare nel quartiere vicino, l'Ardeatino. E la fantasia popolare, stranamente, ha inserito un elemento che non è giusto, perché dicono, ma potevano pure presentarsi quelli che hanno fatto l'attentato. E non che non potevano, prima di tutti non l'avrebbero mai dovuto farlo, perché erano in guerra. Non è che tu spari su un nemico e poi gli dici sono stato io. Quindi lì non c'era da fare, ma insomma diciamo che questi dicano, dovevano presentarsi. Non c'era il tempo materiale. Il 23 del pomeriggio l'attentato, il 24 il massacro, il 25 mattina esce il manifesto che io ricordo bene. Davo la mano a mio nonno, ero piccola, avevo 6 anni, e sento, no, 7 anni, e sento questa mano tremare di mio nonno e lui mi guarda e mi dice: questa è una cosa che non possiamo mai dimenticare. E me l'ha letto. Mi ha detto: vedi, l'ordine è già stato eseguito. Piccolina, ricordatelo, non si fa così. E siamo tornati a casa e lui era agitatissimo perché lui aveva capito. E poi la gente, piano piano, sai, dopo nei mesi estivi, le cicoriare che andavano a cogliere la cicoria hanno trovato i cadaveri. Ma è stata una cosa terribile per Roma, un immaginario che non si deve dimenticare. Giovanna, in chiusura volevo chiederti cosa rappresenta per te oggi la memoria storica e in che rapporto ci sei? Ma io ho 81 anni, se non avessi fede nella memoria storica, e questo è il mio rapporto che ho, sarei giovane, ecco, invece sono vecchia e quindi io so che la memoria è quasi tutto, perché uno si basa sulla memoria, non c'è niente da fare, e la memoria storica è fondamentale, non si può cancellare la memoria storica, e infatti. Guarda tu, anche con le cose moderne, io adesso ho in mano questo cellulare e dentro ci sta tutto quello che abbiamo vissuto. Cioè, perché tu trovi tutto quello che è andata fino ai tempi antichissimi. E dico, non è un caso, non è un caso se questo c'è, perché è fondamentale per collegare. Noi non possiamo vivere come degli oggetti, noi abbiamo bisogno di un prima e di un dopo. E quindi dobbiamo sentire quello che è stato prima per prefigurare quello che sarà dopo. E è pazzesco questo di non dare più importanza a queste cose. Ogni tanto quando nelle scuole noi andiamo a cantare col coro, poi si chiede: ma questo l'avete studiato nella storia? Cioè, beh no, non era nel programma, oppure no, questo no, non siamo ancora arrivati lì e quest'anno non ce la facciamo. Ma è sbagliatissimo, un professore deve, mentre parla anche degli Etruschi, per esempio, ricordare tutto quello che c'è, che si può collegare, le famose sinapsi, insomma, vedi di collegare le cose e di infilarci dentro Pasolini, un poeta ammazzato in Italia, massacrato, e questi massacri fatti dai tedeschi, sono cose un po' per dirmi, ma insomma, che portagliella sta donna, no, vanno ricordate queste cose, sono cose che hanno ferito l'umanità, ma ferito in un modo, anche se vogliamo, che deve diventare fruttifero, capisci? Si Sì, deve sì. capire come ci si deve comportare, insomma, le scelte da fare. Non ti pare? Certo. E allora ricordiamo questo appuntamento con Il cielo si fa nero, la memoria delle fosse ardeatine, concerto con Giovanna Marini, Flaviana Rossi, Patrizia Rotonda e Michele Manca, martedì 3 aprile a Roma al Teatro Vascello. Giovanna, un abbraccio, è sempre un piacere, ci vediamo a teatro. Va bene, grazie. Ciao Federico, ciao. Ciao.